Buonasera a tutti e scusate il ritardo, ma Dario arriva da lontano. Poi comunque anche chi arriva da vicino oggi ha fatto veramente fatica ad arrivare a Leoncavallo, perché cioè, io da 30 km ci ho messo 2 ore e mezza. Dario arriva dall'Abruzzo, quindi no, dico due cose veloci, nel senso, anche prima quando facevo gli annunci avevo una certa difficoltà a spiegare cosa succedeva stasera. Nel senso che per me quello che è successo all'Aquila in Abruzzo faccio fatica a capire e a interpretare, nel senso che comunque è una cosa distante. Nel senso, a me non è mai successo di perdere la casa, di vivermi un terremoto, e quindi l'ho vissuto come tanti di noi probabilmente l'hanno vissuto in questi mesi, solo attraverso il racconto dei media, e magari facendo lo sforzo si poteva usare la rete e cose del genere. Però comunque è una cosa distante. C'è questa strana coincidenza e quasi mi vergogno il fatto che comunque questa iniziativa si chiama La Terra Trema. Grazie a un amico, un compagno, una persona con cui abbiamo condiviso alcune esperienze, tra cui La Terra Trema, Critical Wine, così. Ci ha raccontato l'esperienza di Pesco Maggiore di questo gruppo di persone e ci sembrava interessante sentire una testimonianza vera e interessante, non so come dire, da toccare e cercare di fare un passettino in avanti sul livello di consapevolezza e capire le cose come funzionano, così. Quello è stato un po' lo stimolo di farlo. Poi abbiamo coinvolto Mille Piani, Matteo, che anche lui, grazie alla Terra Trema, abbiamo incrociato per altre questioni e gli abbiamo proposto un po' di seguire questo dibattito, e a sua volta ha invitato Matilde, che anche lei poi ci racconta un'esperienza ha delle competenze professionali, urbanista, architetto, e ha lavorato in Sri Lanka, giusto? Dopo lo tsunami, e guardando un po' quello che sono le dinamiche, i dispositivi che stanno dietro poi a delle grosse ricostruzioni. Io mi fermo qua e do la parola a loro.